9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Buongiorno cari ascoltatori, niente pillole stamattina, niente pillole, lunedì 26 di novembre, un auguro che si chiama Leonardo. Innanzitutto un avviso, perché oggi c'erano molti ascoltatori che aspettavano in trasmissione l'amministratore delegato della Juventus, perché lo avevamo annunciato venerdì, ma lo avevamo annunciato più volte. Perché? Primo, per un diritto di replica, perché in due trasmissioni 10 giorni fa ho attaccato duramente la decisione del Consiglio Comunale di Torino di dare un'area a prezzo troppo basso alla società Juventus, vicino all'area dove c'è lo stadio della società, la Continassa. Ma poi sarebbe stato anche fantastico oggi parlare all'indomani della sconfitta della Juventus con il Milan, per un milione che non c'era, per un rigore che non c'era a favore del Milan, lo ammette persino un mago dei trucchi nelle regole come Berlusconi. Quindi devo ammettere che sarebbe stato doppiamente interessante. E devo a questo punto però rassicurare tutti i tifosi e gli ascoltatori che volevano Aldo Mazzia qui. Noi abbiamo per diritto di cronaca, per così dire, ieri sera tardissimo, e me ne scuso, avvisato il portavoce della Juventus, l'amministratore delegato, dicendo: per diritto di cronaca sentiamo che sia giusto continuare ad occuparci domani mattina, dopo la trasmissione di Milan, dell'ottimo Milan prima di me, delle primarie del PD, visto il rilievo assoluto, la partecipazione elevatissima, l'impatto che hanno sulla politica italiana, sul futuro nei prossimi mesi. Pensiamo che per il diritto di cronaca prevalga, e a quel punto, scusandoci e prostrandoci, oltretutto intervenendo dopo una vittoria soffiata a tavolino dal Milan per un rigore che non c'era, abbiamo detto: dateci, vi preghiamo, un'altra data, cercate di comprenderci, dobbiamo fare il nostro mestiere di giornalisti. E quindi posso dire ai nostri ascoltatori, agli juventini e anche agli anti-juventini in ascolto, visto che si trattava di un regalo di un'area pubblica in cui la critica non è per i tifosi, la critica è, o comunque l'approfondimento è, per la politica che decide su un'area pubblica di praticare prezzi di quel tipo a una società sportiva, a tutti i tifosi e a tutti gli ascoltatori diciamo: ripareremo presto, perché la promessa della società sportiva e del suo amministratore delegato è quello di darci un'altra data, e quindi vi avviseremo per tempo, per così dire. Allora, tema di oggi appunto sono le primarie. E nel frattempo fatemi dire che è fantastico vedere, prima ancora del primario del PD, come reagisce il PDL, perché questa storia di Berlusconi, che adesso butta tutto per aria, rifà il suo partitino, dice che lui con la crisi del PDL non c'è niente, la reazione attribuita ad Alfano a questa notizia di Berlusconi che butta tutto per aria, che diceva: ah, va bene, se presidente, allora forse sì, è meglio che ci ripensiamo, so anch'io che le primarie del PDL sono un rischio. Oppure l'intervista oggi alla stampa di Galan, che dice: sono inutili le primarie del PDL, Fede che presenta il suo partito. Emilio, lo dico, ti voglio bene, ma insomma, di fronte a una sala completamente vuota, allora, se c'è una cosa che è evidente, è l'assoluta, abissale, incolmabile distanza, comunque, pensate a quello che volete, ma tra la serietà e anche l'intelligenza mediatico-politica di un processo come quello che il PD ha messo in moto con Bersani, che ha accettato di cambiare lo statuto e ha accettato la sfida che gli lanciava Renzi, e di fronte a queste 3 milioni e 2, 3 milioni e 4, 3 milioni e mezzo, c'è chi dice 4 milioni, non lo so, ma comunque tanti milioni di italiani che si mettono in fila per esercitare la loro volontà di compartecipare alla scelta di un candidato presidente del Consiglio, con questo PD è inutile che ci giriamo intorno, si mette non in primissima fila, si mette al primo posto per esercitare il ruolo di pilastro intorno a cui costruire una soluzione politica per le prossime elezioni. Il PDL ha vinto in sepoltura quotidiana senza onore, che Berlusconi è impegnato da un anno e mezzo, due anni a dare a se stesso, a chi lo segue, ed incapace di esprimere persone politiche con un qualunque senso della necessità di una rottura che deve essere inconciliabile con la persona che ha perso il senso di sé come Berlusconi, è semplicemente su un'altra galassia oramai, cioè possono autorappresentarsi come credono, però sono fuori da ogni possibilità di esercitare un ruolo politico, tranne che la difesa attraverso pretoriani decisi ancora una volta con questo criterio di un'azienda che imbarca acqua a tonnellate. Questa è l'immagine che forniscono di sé, evidentemente deve essere un'immagine che li compiace, perché non riescono a fare altro. Seconda osservazione sulla domenica. Mi hanno molto colpito le parole del Premier Monti pronunciate a Fabio Fazio, perché mi avevano negativamente colpito le parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che si era fatto titolare di un diritto di, per così dire, passivo di voto politico del Presidente del Consiglio. Non credo che spetti al Presidente della Repubblica, ma aveva detto non si candida, non si deve candidare. Mario Monti ieri, naturalmente le parole di Napolitano avevano fortemente deluso, chi come Casini, Montezemolo invece punta esplicitamente a una soluzione Monti che continua, e a questa soluzione pensa anche Eugenio Scalfari, come avete letto forse nel suo editoriale di ieri su Repubblica. Diciamo un'ipotesi diversa rispetto a quella di Bersani, se Bersani vince il secondo turno delle sue primarie nel PD, un'ipotesi diversa anche a quella che diventerebbe automaticamente invece un segno inedito della politica italiana, che secondo me rivoluzionerebbe molte cose, cioè nel caso in cui il ballottaggio lo vincesse Renzi. Ma Monti ieri ha detto: rifletterò sul mio contributo. E che cosa vuol dire? Nel gergo misurato, rotondo, del Presidente del Consiglio, questo vuol dire che non date retta alle parole del Presidente della Repubblica. Io posso essere benissimo in grado di benedire chi mi sostiene, come Casini e come la lista Italia di Bonanni, delle Acli, di Sant'Egidio e di Italia Futura, e questa parola apre un altro versante da parte di Monti del possibile esito, del possibile sviluppo delle prossime elezioni politiche. Ma andiamo direttamente al punto. Vi segnalo anche che è di una certa importanza il voto di ieri della Catalogna. La Catalogna ha fatto vincere gli autonomisti, ma ha fatto perdere chi era alla testa del governo, cioè Arturo Mas, e da questo punto di vista quindi ha prevalso una linea molto autonomista, non seccamente indipendentista con di schiera di Catalogna, mentre invece siamo ancora appesi per la soluzione all'Eurogruppo, per l'abbassamento del valore nominale dei rendimenti dei titoli greci in pancia ai paesi dell'euroarea, e siamo ancora appesi per la soluzione del problema del bilancio europeo. La novità positiva è venuta dall'indice IFO tedesco, che è uno di quegli anticipatori della fiducia del mercato, che a novembre è andato avanti di 1,4 punti, mentre invece tutti si aspettavano che stesse fermo o diminuisse. Ma insomma, le cronache europee sono cronache ancora, per così dire, in cui non si registra uno scatto in avanti della politica. Andiamo alle primarie. Abbiamo con noi tre ospiti in questa prima parte della trasmissione. Naturalmente l'abbiamo messa in piedi stanotte, quindi ho beccato chi era sveglio, per così dire. Vi presento i nostri tre ospiti. Abbiamo con noi Gad Lerner, conduttore dell'Infedele, che scrive su Repubblica. Buongiorno e grazie, Gad. Buongiorno a voi. Il direttore dell'Unità, Claudio Sardo. Buongiorno, direttore. Buongiorno. Il direttore del Tempo, Mario Secchi. Buongiorno, Mario. Buongiorno. Posso chiedere a Gad innanzitutto, che tra poco poi ci deve lasciare, tra 10 minuti, che impressione ha avuto, e andando subito al punto, pensi che sia sicuro che la soluzione Bersani abbia già la vittoria in tasca, oppure c'è una partita molto più aperta di quanto non sembra dal distacco, 44 e rotti, 45 rispetto a 35% di Renzi? Ma le ultime notizie dicono che il distacco è un po' sotto i 10 punti, è cresciuto con lo spoglio notturno delle schede, c'è stato un ritardo per cui solo da pochi minuti il responsabile organizzativo dà Bersani sostanzialmente al 45%, un punticino sotto, e Renzi al 35,5. Sono due signori risultati entrambi. Non mi stupisce quello di Bersani, che veniva collocato molto in alto, addirittura vicino alla maggioranza assoluta. Invece sinceramente mi colpisce che Renzi sia riuscito a stare sopra il 35%. Ti aspettavi di meno? Mi aspettavo di meno, sinceramente, e questo secondo me significa che ha ancora delle chance, che saranno un ballottaggio molto incerto, perché non do per scontato che tutti i voti di Vendola, che invece è uno che correva per perdere, ora lo possiamo dire, che aveva già subito un'emorragia alla sua sinistra, dove si candiderà in Groia, De Magistris, la lista arancione, non so che cosa, non do per scontato che siano tutti i voti che vanno a Bersani, e poi non do per scontato che questa rimonta potente di Renzi non attragga nuovi elettori. Giovedì e venerdì prossimo sarà ancora possibile iscriversi a questo ballottaggio, e siccome io considero che c'è stato un ricambio significativo nell'elettorato del centro-sinistra, molti delusi non sono più andati a votare, o perché criticano l'appoggio al governo Monti, diciamo, per le sofferenze sociali che questo ha provocato, o perché subiscono le sirene dell'antipolitica cosiddetta, o perché sostengono Grillo, ma io conosco anche iscritti al PD che questa volta hanno detto non ci vado, non ci credo più. Viceversa, ne sono arrivati di nuovi. Questa platea di poco al di sopra dei 3 milioni, la cifra sembra che si ridimensioni, ma resta ugualmente ragguardevole, 3 milioni e 100 mila persone equivalgono all'incirca a un quarto degli elettori che avevano votato per il centro-sinistra l'ultima volta nel 2008, uno su quattro, sarebbe una cifra enorme. Non credo che siano gli stessi, molti sono stati attirati nel perimetro del centro-sinistra da Matteo Renzi, e lasciatelo dire a me che ho votato Bersani, che mi auguro alla fine vinca Bersani, perché lo considero come dire più adatto a fare il Presidente del Consiglio rispetto a Monti e rispetto a Renzi, per capacità di ascolto e per sensibilità ai temi della giustizia sociale, ma il fatto che si sia rotto il vecchio perimetro del centro-sinistra, che Renzi abbia attirato i delusi anche dal centrodestra, accidenti, io lo trovo un'ottima notizia. Gad, posso farti una domanda secca? Ma secondo te, se vincesse Renzi, a prescindere da come la pensi e da come ci hai appena detto su Bersani, non ci sarebbe una chance politicamente più rilevante che il Premier fosse espressione diretta del PD rispetto a Monti, che continua, rispetto a Garanzia dei Mercati, che vale un po' di più come carta rispetto a Bersani, se Bersani resta il leader in campo? Se ho capito bene la domanda, condivido, diciamo, il giudizio. Se vincesse Renzi, cosa che considero improbabile ma assolutamente possibile, non è affatto impossibile, se vincesse Renzi, a quel punto secondo me avrebbe la strada in discesa verso Palazzo Chigi. Si innescherebbe un effetto valanga, euforia, per cui il giovane l'Obama italiano e quant'altro. Io non me lo auguro, perché credo che darebbe vita a un governo ideologizzato sul nuovismo, dove i vecchi da rottamare verrebbero rottamati insieme a tanti poveracci sul piano sociale. Ah, tu dici un po' insensibile socialmente, dici. Esatto, credo che un governo Renzi Ichino, per capirci, lo dico con grande stima e rispetto per Pietro Ichino, non corrisponda alle esigenze di una fase economica che si preannuncia ancora purtroppo a lungo drammatica. La politica dovrà innanzitutto fare la lotta contro la povertà, ed è per questo insomma che io preferirei Bersani. Ma guarda che in ogni caso queste primarie indeboliscono l'ipotesi del Montibis. Questo è un dubbio. Questo anche, è un dubbio. Anche una vittoria di Bersani, che resta la più probabile, se è davanti di 10 punti, ovvio che sia favorito, lo legittima in una maniera tale di cui tutti dovranno tenere conto. Questo sì, anche se temo che poi temo che l'allineamento di poteri la pensi diversamente. Poi c'è l'incognita, perché ci sono alcuni milioni di italiani a cui il comportamento del centrodestra indica come unica dignitosa prospettiva veramente o stare a casa o votare Grillo o altro di cui oggi non siamo qua a parlare, per così dire. Però come reagiranno gli elettori del centrodestra è un po' singolare. Comunque l'ipotesi c'è aperta per Gerd Lerner, che Renzi ce la possa fare. Improbabile, dice, ma è aperta. Posso chiedere a Claudio Sardo, al direttore dell'Unità, quanto si sentirebbe di scommettere sull'ipotesi di una soluzione di rimonta domenica prossima, cioè di vittoria di Renzi rispetto a Bersani? Il risultato lo ha lasciato stupito, Claudio Sardo? Ma io insomma adesso fare la scommessa mi pare un'impresa ardua. Io credo, ho capito questa notte che il distacco è intorno ai 10 punti e che ci sono dei problemi di verifica ovviamente dei risultati, perché chiaramente la macchina chiaramente risente del volontarismo e di difficoltà. È un'operazione quella che è stata messa in piedi dal Ministero dell'Interno di un medio paese, e quindi essendo questa veramente un'elezione competitiva dovremmo avere un po' di pazienza, però insomma ho capito che sono circa 10 punti e mi sembra probabile che vinca Bersani, anche perché la logica di queste primarie, le regole che sono state provate, come è ovvio che la base elettorale non può cambiare dal primo al secondo turno, quindi non credo che ci saranno iscrizioni dal primo al secondo turno. E quindi sulla medesima base elettorale mi sembra probabile che vinca Bersani, ma non scontato. Sono d'accordissimo con quello che ha detto Gerd Lerner, perché comunque il ballottaggio è sempre una seconda elezione, ci sono due vincitori, però siccome diciamo, l'inerzia, l'istinto è quello di studiare l'outsider, io vorrei anche dire che la vittoria di Bersani è una vittoria notevole, perché per due settimane sono stati scritti sui giornali dei sondaggi che dicevano che se si superavano i 3 milioni di elettori Renzi sarebbe passato in vantaggio. Bersani non ha solo vinto politicamente perché ha azzeccato una scelta, si è messo in discussione, ha accettato le primarie aperte, tutte le cose che avete detto, te, Oscar, Gad, sono tutte valutazioni politiche che condivido, però anche i numeri gli hanno dato abbastanza ragione, cioè anche con una platea molto ampia, quindi superiore ai 3 milioni di elettori, ha avuto un distacco considerevole. Quindi questo mi fa pensare che insomma, dovrebbe vincere domenica, però insomma, è chiaro che non è scontato. Politicamente io penso che sul dibattito che avete fatto, io non credo sinceramente, non lo vedo un governo Renzi possibile, non credo che la partita di Renzi sia quella, la partita di Renzi mi sembra un'altra, sia l'avvio di un percorso politico che adesso Renzi dovrà dimostrare di essere capace di amministrare il capitale che ha raccolto. Io penso sinceramente che per l'equilibrio dei poteri italiani e anche delle alleanze internazionali che sono necessarie per fare un governo, non è che un governo nasce soltanto da forze interne, ricordiamo che Berlusconi è stato tolto principalmente da ragioni esterne e che Monti gode di una forte credibilità principalmente per ragioni esterne. Sì, è così. Io credo che non ci sono alternative, non vedo alternative tra Monti e Bersani. Se Bersani completa questo percorso con una vittoria alle primarie, secondo me è più forte nel lanciare la sua candidatura. Comunque con quell'area insomma dovrà fare i conti. Cioè, io sono d'accordo con quello che ha detto Oscar, ieri Monti ha detto delle cose molto importanti, cioè ieri Monti ha sostanzialmente detto io ci sarò, in qualche modo ci sarò, dovrò definire sarò politicamente, non è che ci sarò solo perché poi mi chiamate e faccio una cosa, dirò una cosa mia alle elezioni. Sì. E questo Ora, secondo me lui può dire due cose, può dire una cosa competitiva col centrosinistra che viene da questo processo, o può dire una cosa collaborativa con il centrosinistra. Cioè, lui, anche lui secondo me è un personaggio importante nella definizione del governo Bersani. Cioè, Bersani, se dovesse vincere queste primarie, dovrà costruire un sistema di alleanze in cui ci sia anche la credibilità, anche Monti lo aiuti a vincere quel gap internazionale che avrà chiunque dopo Monti si dovrà proporre come premier italiano. Condivido molto, io ricordo tutti che c'è questo punto aperto secondo alcuni molti, secondo alcuni giornali, un giornale che secondo me coglie in sintesi ma molto bene le tre partite decisive per l'esito del ballottaggio in vista del secondo turno del PD e La Stampa che dice, ovviamente c'è mercoledì il faccia a faccia televisivo tra Bersani e Renzi, c'è un punto aperto sulla registrazione di nuovi elettori, perché avete appena sentito Claudio Sardo dice è sulla stessa base elettorale, in realtà Renzi era riuscito a ottenere che tra giovedì e venerdì si riapra la possibilità di andarsi a iscrivere per poter votare, ed è chiaramente su questo che loro puntano, cioè sul fatto che di portare nuova gente per votare domenica. Dopodiché la terza cosa sarà la strategia l'una verso l'altro. Renzi ieri ha iniziato a dire un pochino ce l'ho fatta, era un grande risultato anche se avevo contro tutto il partito, aveva contro 107 segretari provinciali su 110 ha detto, e quindi a questo punto spera su un effetto cambio di disposizioni interne rispetto al ballottaggio tra lui e Bersani. Vedremo su questi tre punti. Direttore del Tempo, Secchi, certo se uno paragona sul pubblico o sull'elettorato di centrodestra l'effetto di questa unilaterale, che non può che essere elogiativa, giornata successiva delle primarie del PD è un'altra bella mazzata sulla testa, cioè la possibilità che il centrodestra abbia qualche cosa da dire alle prossime elezioni politiche appare più o meno remota come gli anelli di Saturno. O no, c'è qualcosa che ci sfugge secondo te? No, non ci sfugge niente, l'analisi tua è corretta, le cose dette da Lerner e da Sardo prima pure sostanzialmente, e il tema vero è che il centrosinistra è in piedi e Bersani sta lavorando già a puntellare la prossima coalizione di governo. Le primarie, sono d'accordo, danno più forza all'ipotesi di un governo politico, poi naturalmente ci sono anche, siccome non siamo soli nell'universo, fattori esterni diciamo che possono condurre perfino ancora a un governo Monti. Il centrodestra non c'è nulla. È inutile che stiamo a fare grandi voli pindarici, bisogna volare basso, e la verità è che se tu appunto fai volo radente non incontri niente che non sia l'ipotesi di riavvolgere il nastro e tornare alla salvifica ridiscesa in campo di Berlusconi, dal che mi viene da dire tanti auguri, nel senso che non vedo alcuna novità politica. L'unica possibilità che ha il PDL, che è il vero partito in crisi, uno dei due perni sui quali si è formata l'avventura politica degli ultimi 20 anni, è che quel partito faccia le primarie e si apre alla competizione. Ora, ipotesi allo stato attuale remota, però visto il deserto radioattivo che c'è da quelle parti, perfino delle primarie accrocchiate, che sono un mezzo pasticcio e così via, vanno bene. Questo è il quadro politico. Se non si fa questo, si va incontro a una probabile disgregazione di qualche resto di quel partito con un fronte moderato, chiamiamolo così, polverizzato, incapace di fare coalizione, e dunque il centrosinistra vince per propria capacità da una parte, ma molto in realtà per completa assenza dell'avversario dall'altra. Allora faccio prima Mario Secchi, poi a Claudio Sardo la stessa doppia domanda. La prima domanda è, ma ve lo vedete Bersani che chiede i voti adesso a Vendola, oppure andrà avanti per inerzia, per così dire, e ragionevolmente parlerà a tutto il centrosinistra senza fare patti? E poi seconda domanda, ma adesso le truppe dei moderati si vanno a iscrivere aggiuntivamente giovedì e venerdì per Renzi oppure no? Cioè, perché Renzi ha fatto un fine di campagna in cui ha alzato il piede sull'acceleratore di ogni polemica e così via. Che ne pensi, Secchi? Ma guarda, la prima domanda, cioè se i voti di Vendola andranno a Bersani, una parte, non tutti, non so quanto consistente, diciamo fare parallelismi con il secondo turno francese, per essere chiari, perché tutti pensano a quello, è un po' arduo. Dicevo una cosa, perché nel secondo turno francese appunto avvenne così e aumentò, certo, anche il numero di quelli che andavano. Sì, però sono elezioni molto collaudate, cioè parliamo di una cosa fortemente istituzionalizzata. Qui no, vedremo la discesa in campo, per esempio, ecco, mi attendo che la CGIL si pronunci di nuovo in questo senso, per esempio, ecco, ci saranno delle spinte forti su questo piano, però poi bisogna vedere sempre i risultati, e io su questo francamente, non avendo precedenti storici, non azzarderei più di tanto. L'altra cosa che mi pare interessante è una cosa che ha detto Gad Lerner prima, e cioè il ricambio di un bel pezzo, sì, della base elettorale del centro-sinistra. Secondo me questa è una analisi corretta e calzante, perché un pezzo dei moderati, cioè di quelli che hanno votato certamente centrodestra, magari non nel 2008 ma prima, poi hanno cambiato e così via, cioè quell'elettorato che è mobile e che cambia di volta in volta a seconda dello scenario politico, stavolta ha votato Renzi, e io penso che molti, vista l'assenza di offerta politica nel centrodestra dall'altra parte, cercheranno e andranno a votare Renzi nel secondo turno. E questo, attenzione, non è una cosa negativa, ma è una cosa altamente positiva per il centro-sinistra, perché allarga la sua base di consenso, non si chiude nel recinto e ha nel futuro abbastanza immediato, secondo me, in Renzi un leader fortissimo, cioè capace di prendere la maggioranza degli elettori del paese, come mai non era riuscito il centro-sinistra finora. Quindi stiamo assistendo non solo a un travaso di base elettorale dentro il centro-sinistra, ma addirittura nello stesso paese, per cui nel centro-destra a maggior ragione dovrebbero cambiare le cose, altrimenti si condannano a quella che io chiamo una lunghissima traversata nel deserto senza acqua. Che pensa invece il direttore dell'Unità su queste stesse due questioni? Ma per quanto riguarda Vendola, insomma, i patti sono stati fatti con tutti, tra tutti i candidati, sottoscrivendo la carta, non credo che ci saranno... Non ci saranno, anzi certamente non ci saranno patti ulteriori. Per quanto riguarda il numero, quanti elettori di Vendola voteranno Bersani, quanti si asterranno, quanti voteranno Renzi, questo, diciamo, dipenderà molto dalla campagna, dai messaggi che si lanceranno. Penso che in prevalenza voteranno Bersani, però insomma è tutto abbastanza fluido. L'altro discorso è molto interessante, però innanzitutto io non condivido l'idea che ci si aprano le iscrizioni, cioè il regolamento si fonda su un principio, cioè che la base elettorale, cioè che penso sia il minimo per fare delle elezioni, cioè non è che può cambiare la base elettorale tra il primo e il secondo turno. Sì, certo, può votare qualcuno che si è iscritto e ieri non ha votato, è scritto sul regolamento che se uno aveva avuto un impedimento grave, che ne so, è andato all'ospedale, non ha potuto registrarsi, non si può cambiare la base elettorale è la stessa di ieri, chi ha votato ieri può votare nel ballottaggio, non si può iscrivere, non ci sono ulteriori iscrizioni, quindi questo, diciamo, è comunque un dato, salvo eccezioni. Il problema della capacità di Renzi di aver raccolto invece elettorato esterno, chiaramente. No, però aspetta Claudio, su questo tecnicamente diamo un'informazione corretta a chi ci ascolta. Tecnicamente la nuova registrazione è possibile, bisogna giustificarsi dicendo come mai non ci si è iscritti prima del primo turno e non si va al primo turno. Cioè, no, perché sentendo te sembra che o sei già registrato o non puoi votare. Invece giovedì e venerdì una nuova registrazione aggiuntiva con giustificazione, ma è possibile. Sì, ma diciamo, non è possibile con l'argomento mi è venuta voglia di votare, ora voglio dire la mia. Certo. È possibile con delle ragioni appunto materiali di impedimento. Sì. E invece la questione dell'apporto, cioè del fatto che una fascia consistente, visibile, di elettorato non di centrosinistra ieri è andata a votare per Renzi, e questo, secondo me, questo fenomeno è avvenuto molto nelle regioni rosse, dove è evidente che l'assenza di un competitore è un problema che ormai è stato interiorizzato dall'elettorato che è ostile al PD o che non vuole il PD. Questo qui è un fenomeno, secondo me, insomma, dovremmo valutarlo bene, perché da un lato è un grande potenziale per il PD, però dall'altro uno potrebbe dire, ma siamo sicuri che tutti questi elettori o che parte di questi elettori resteranno fedeli al PD qualora vincesse Bersani? Cioè, questo è il punto che io penso che Renzi, la grande vittoria di Renzi stia qui, nella sua capacità di aver preso elettorato nuovo e la sua ruolo politico, cioè è lì che si vede se Renzi può domani diventare un leader di un'area e quindi lanciarsi veramente per guidare un governo, cioè la sua capacità di rappresentare, di rassicurare quell'area, di dargli un senso a questa domanda e di riuscire a plasmare, a modificare una politica di un partito. Cioè questa è chiamato ad una prova enorme. Lui ieri è stato un vincitore perché ha ottenuto questo risultato, ora deve dimostrare di non dissipare questo patrimonio, perché se poi alle elezioni questi elettori dovessero andare verso nuove offerte politiche, chiaramente questo fenomeno non avrebbe né un beneficio il centrosinistra, il PD, e nella sua leadership futura, ecco. Naturalmente lui potrebbe dire, beh, se mi fate vincere vi dimostro che non solo li tengo tutti a sostegno del PD, ma altri ne aggiungo, per così dire. Cioè, io penso che se la vittoria di Renzi cambierebbe segno alle prossime elezioni politiche, non so dire né chiedo a voi, perché mi sembra improprio di esprimere valutazioni sul fatto di quanti e se uscissero dal PD in caso di vittoria di Renzi. Io credo qualcuno uscirebbe, però detto tutto questo, perché non vale solo per Renzi verso Bersani, vale anche per il partito a fronte di Renzi. Se vincesse Renzi siamo proprio tutti sicuri che resterebbero lì e non andrebbero molti tutti chiedono le garanzie a Renzi, ma c'è anche Vendola all'alleanza, lui dice sì. Vendola resterebbe lì o poi andrebbe con Ingroia, gli Arancioni eccetera, non lo sappiamo, questo è il punto vero. Detto tutto questo, io credo che la vittoria di Renzi cambierebbe il segno politico e sarebbe un grande spariglio, per così dire, da vedere poi su quale contenuti programmatici. Credo che sarebbe molto complicato a quel punto per l'area Casini-Montezemolo dire Monti, cioè bisognerebbe poi argomentarlo su contrasti politici. Su Bersani io credo che sia, per certi versi, anche se Bersani uscisse con una strepitosa vittoria in termini di affermazioni personali nel ballottaggio, la pressione internazionale sottintesa alla chiave neomoderata Casini-Montezemolo avrebbe un miglior gioco, per dire Monti a prescindere, perché non è una questione di contenuti, per così dire. Terza ipotesi davvero che poi ci siano dei contenuti in gioco, cioè su cosa la cambiamo la politica dell'agenda Monti, con Monti o senza Monti, e di questa roba qua non si sente parlare per definizione quasi, cioè è una pura faccenda di collocazione politica. Vedremo. Oggi dedico la voce di Jim Morrison ai nostri due marò che stanno in India. Io su questo tema ho sempre evitato prese di posizioni demagogiche, io trovo però incomprensibile, ai miei occhi, che pure mi occupo di strategia politica estera da un po' di anni, scrivo per un mensile come la rivista Italiana Difesa, a me è totalmente incomprensibile come un paese sovrano come l'Italia possa accettare la protrazione per un numero così lungo di mesi di una vicenda nella quale il presupposto è la mancanza di competenza territoriale per la giurisdizione indiana. Nel rispetto dell'amicizia, del buon rapporto con l'India, posso capire che l'Italia, a differenza di altri, non abbia politiche muscolari su queste robe qua, ma che passi un così elevato numero di mesi senza che la nostra politica estera riesca a trovare una soluzione e i nostri due marò debbano stare lì, è una cosa che veramente testimonia l'assoluta mancanza di un qualunque rilievo o una qualunque accettabile capacità dell'Italia, non di fare politiche di forza che non ci appartengono, ed è giusto che non ci appartengano, ma di trovare soluzioni dignitose, come devo dire, dignitose. Siamo al di sotto del livello della dignità, ne ho parlato sempre molto poco, però veramente siamo oltre ogni limite del possibile. Vediamo come la pensano i nostri ascoltatori intanto su questo primo turno delle primarie del PD. Cominciamo con Franco dalla provincia di Vicenza. Prego Franco. Buongiorno. Allora, volevo cambiare un po' l'intervento, visto per tutti i sardo che sono in ascolto, io ieri non sono andato a votare perché avevo mal di pancia. Detto questo, io sono un elettore di destra da sempre, però... Ma no, no, non c'è andato ieri, ma andrà quindi al secondo turno o no? Probabilmente, anzi, sicuramente io e la mia famiglia andremo a votare se ci sarà la possibilità del secondo turno, perché a destra c'è l'encefalogramma piatto e Berlusconi, la delusione, e Renzi lo vediamo come l'unica alternativa possibile, probabile, per un futuro politico. Il resto è zero, insomma, per non finire nelle mani di Grillo. Ok, cui, quindi Franco, per la prima volta mi tapperò il naso. Franco ha un'idea chiara e secondo me sono in tanti ad avere l'idea di Franco. Io sbaglierò, non polemizzi, ma per i tanti sardo, dei sardo ce n'è uno, il direttore dell'unità, Claudio Sardo, che è con noi, che ringraziamo. Non si tratta di polemizzare, si tratta di vedere. Io credo che in realtà siano tantissimi a pensarlo in questa specie di area intermedia della politica, così su Renzi. Vediamo quanti avranno poi la voglia di dire che hanno avuto mal di pancia, per così dire, perché questa cosa poi creerebbe inevitabilmente una reazione fortissima all'interno del PD. Cioè, se assistessimo a una vittoria di Renzi con accresciuto numero di votanti molto rilevante, scoppierebbe un casino di proporzioni gigantesche, almeno questa è la mia opinione. Poi sentiamo Sardo e Sechi come la pensano. Margherita, ora Margherita, spero non sia mia moglie, ma è dalla provincia di Milano. Però ho temuto che mi chiamasse per tirarmi le orecchie perché avevo sbagliato qualcosa stanotte. Vabbè. Allora, vi ho ascoltato molto attentamente come al solito e io fra l'altro avevo messo in evidenza la mia sorpresa, quasi direi, per tutto questo entusiasmo per le primarie eccetera. No, io non ho capito che cosa sia successo di così rivoluzionario, che cosa mi dovrebbe far cambiare la mia idea ormai radicata che qui sarebbe necessario davvero mandare a casa tutti e ricominciare da capo. Questa è qualche cosa che penso io, ma siamo in tanti a pensarla così, compreso il signore dell'ultimo intervento. Effettivamente Renzi rappresenta una ipotesi di rivoluzione senza armi che potrebbe, però siamo sempre nel campo delle ipotesi, che potrebbe davvero cambiare questo stato di cose che ci è insopportabile ormai, non possiamo più sopportarlo, non possiamo più parlare in termini politici come se ne poteva parlare una volta, perché non c'è più questo sentimento da parte di noi, diciamo moderati, poi tra l'altro moderati fino a un certo punto. Esatto, perché su questo sono molto d'accordo, io stesso dico, unica citazione di questa trasmissione, fermare il declino, moderati è una roba che mi fa piegare in due, qui ci vogliono cambi immoderati di cose da fare. Ma Margherita, lei ci va o non ci va al secondo turno? Guardi, sono ancora molto perplessa. La mia idea è sempre stata quella che bisogna partecipare per poi poter criticare. Però adesso sono davvero così nauseata da tutto quello che succede. Dottor Giannino, dove sono i contenuti in tutto quello che sta succedendo anche in queste primarie? Non ci sono. Margherita, me l'ha appena sentito dire e su questo non posso che essere d'accordo con lei. E purtroppo pensare che ci vuole una cosa dal basso diversa, non so se ce la faremo. O altrimenti l'alternativa è o stare a casa o Grillo. Grillo però, per quello che mi riguarda, apprezzo molto la gente che si impegna lì, perché molti sono miei amici, li stimo, però le loro proposte sono incompatibili con un paese che voglia stare in piedi nei mercati e in Europa e non danno neanche le soluzioni vere ai milioni di italiani vittime della crisi. Quindi questa è la mia personalissima opinione. Sentiamo come la pensa Sardo. In caso ci fosse la corsa giovedì e venerdì, cosa succede nel PD invece, la corsa a nuovi elettori? No, io volevo dire questo all'ascoltatore, perché questo è un punto molto delicato. Ora, naturalmente, lui può aver avuto il mal di pancia, non può aver avuto il mal di pancia tutta la famiglia. È evidente che lui non può votare al ballottaggio, ma non è una questione di burocratica, è una questione democratica molto, molto rilevante, perché i partiti sono, il Partito Democratico, il centrosinistra, è una minoranza. Cioè, le persone che sono andate ieri a votare sono una minoranza assoluta di questo paese, sono 3 milioni e mezzo di persone su 60 milioni. Queste persone hanno deciso collettivamente, autonomamente, di sottoporre la scelta del loro candidato premier a una consultazione ampia. Non è immaginabile che Renzi possa vincere il ballottaggio, perché gli elettori di destra vanno a votare perché hanno piacere che... Ok, che... l'hai detta chiara, chiedo a Secchi in 10 secondi, tu dirai ai tuoi elettori di andarci a giovedì e venerdì, Mario? È un'opportunità. Non capisco perché un elettore non possa passare dal centro-destra al centro-sinistra se trova un'offerta migliore dall'altra parte. Bravo Mario, e quindi come vedete ecco il problema di questa settimana. Grazie a Secchi, grazie a Sardo, appuntamento a domani.